Tirico. Mi chiamano ragazzo, non guardano l'età. Mi chiamano tutti Rigo. C'è ancora per fortuna qualcuno che mi chiama. Per cui anch'io la mia, nessuno può cambiarmi la memoria. Ognuno nasce figlio con quello che vuol dire trovarsi a fare il figlio e il genitore. E ho cominciato presto con le 8 ore, le stesse di mio padre. E ho avuto un po' di fretta a mettermi con Sara, con tutto quel futuro da gestire. È come un lungo sonno dentro cui ci si confonde fra realtà e fantasia. Ognuno c'ha il suo nome, il mio vero, vero nome qua. Lo so solo io che è qui, che è qui. Intanto mi chiamano tutti Rigo. Mi chiamano ragazzo, non guardano l'età. Mi chiamano tutti Rigo. C'è sempre per fortuna qualcuno che mi chiama. Qui tutti sanno tutto, ognuno ha la ricetta, ognuno sa che cosa ribaltare. E un altro che promette più figa e meno tasse, e i panni sporchi ad incrostare al sole. La faccia come il culo nella foto, la foto sempre in rete. Ma dico cose vecchie che tutti già sapete, che tutti ricordate se volete. È come un lungo sonno dentro cui ci si difende fra realtà e fantasia. Ognuno col suo nome, ognuno con il suo destino. Io per forza col mio, e qui, e qui. Intanto mi chiamano tutti Rigo. Mi chiamano ragazzo, non guardano l'età. Chiamano tutti Rigo, c'è ancora per fortuna qualcuno che mi chiama. Mi chiamano tutti Rigo, mi chiamano comunque, nel caso servirà. Mi chiamano tutti Rigo, è solamente un nome che devo meritare.